Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino e io sono Gigi D'Agostino, quello lì. Posso andare? Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Vai. Solo musica fatta in casa. A volte è scontrosa, a volte è più dura. Dura, dura, ma la vostra mente viaggia sicura. Per osservare un'opera d'arte occorre aprire gli occhi. Per comprenderla bisogna chiuderli. Alessandro Morandotti. Se volete scrivermi 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O. M2O. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarro. Tamarro. La notte di Capodanno, il 31 dicembre, ci vediamo a Rimini, discoteca Altro Mondo. Altro Mondo. Io comincio a suonare alle ore 20. Penso che posso ballare con questo casino, mi posso esaltare. Al ritmo del lento violento, il cuore mi batte e vuole ballare. Accendo la radio a quell'ora perché c'è un maestro che voglio ascoltare. Il cammino è lento, violento e con un messaggio da catturare. Dal ritmo più duro a quello più dolce io mi farò trasportare. Perché quello che conta non è etichettare, ma è solamente amare. Amare la musica di questo cammino che non segue mode come un cretino. Signore e signori, dirige Gigi D'Agostino. Il 27 dicembre del 1901 nasce Marlene Dietrich, attrice tedesca. Richard. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ciò che può essere contato conta, e non tutto ciò che conta può essere contato. Albert Einstein. Conta, conta, conta, conta, conta. Uno, due, uno, due, questa è la marcia. Conta. Uno, due, uno, due, questa è la marcia. Cammino del Gigi D'Agostino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. A volte scontrosa, a volte è più dura. Del 1968, la missione spaziale Apollo 8 rientra sulla Terra. Il cammino di Gigi D'Agostino. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel mondo che non c'è. Thank you. Ti amo con tutta l'altezza, la larghezza e la profondità che la mia anima può raggiungere. Quando sentendosi lontana dagli sguardi, tende ai confini dell'essere e della grazia ideale. Ti amo con il respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita. Elizabeth Barrett. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Un attimo di attenzione. Una comunicazione esplosiva. Questa sera, mercoledì 27 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona a Trento. Discoteca Chalet de la Motte. Chalet de la Motte. Valselga di Pinè. Vieni anche te. Passo lento ma violento. E me passa lo sgomento. Passo lento ma violento. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Un viaggio lungo 1000 chilometri inizia con un piccolo passo. Lao Tse. Passo lento ma violento. E me passa lo sgomento. Passo lento ma violento. E me passa lo sgomento. Passo lento ma violento. La scienza non può stabilire dei fini e tantomeno inculcarli negli esseri umani. La scienza, al più, può fornire dei mezzi con i quali raggiungere determinati fini. Ma i fini stessi sono concepiti da persone con alti ideali etici. Albert Einstein. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. Spettacolo praticamente. Elementari come il moto di un'onda. Il 27 dicembre del 1903, Giacomo Puccini termina la stesura di Madama Butterfly. Qui si vola. A tempo. Che sentieri percorriamo tutti insieme ogni giorno alle 18. Che mondo è? Che storia è? D'Agostino, un suono per gli amici e parenti, i movimenti incoerenti, i movimenti incoerenti. Quell'attività che si ritiene immune dalla pubblicità, prima o poi, si ritrova immune da ogni attività. Taradattata, taradattata. Sali in sella, è suonata la campanella. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Gigi D'Agostino, una musica infinita che racconta la vita. Ti amo, sono perduto, è tutto quello che so. Spettacolo, frate. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Cammino di Gigi D'Agostino. Il tuo antidepresso. Rimani connesso. Scontrosa. A volte è più dura. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. La musica. A volte è scontrosa. A volte è più dura. Ma la vostra mente viaggia sicura. Piscia un po' sta musica. Dai e poco sta cassa. Il cammino di Gigi D'Agostino. Non giochiamo. Talento. Ciò che è raro è il coraggio di seguire quel talento nel luogo scuro a cui conduce. Erika Jorg. Gigi D'Agostino, un uomo scuro, scontroso e un po' giocondo. Musicista, sognatore, imprenditore e vagabondo. Gigi D'Agostino, un piccolo paese fuori dal mondo. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Questa sera, mercoledì 27 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona a Trento. Discoteca Chalet de la Motte. Valselga di Pinè. Trento. Ci vediamo lì. Cammino di Gigi D'Agostino. Questo programma musical mental. Olé. Me gusta mucho más. E che cacho. Sono un po' perso, ma questo è il mio universo. Sono Gigi D'Agostino, tamarro bizzarro. Quando legge, legge se stesso. L'opera dello scrittore è soltanto una specie di strumento ottico che egli offre al lettore per permettergli di capire quello che, senza libro, probabilmente non avrebbe visto in se stesso. Marcel Proust. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica ben detta. D'Agostino è a vostra disposizione. Potete far sentire la vostra voce. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Qualcuno domandati perché, ricerca nella memoria quello che fu di te. Stato puro. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Chuck. Il 27 dicembre del 1948 nasce Gérard Depardieu, attore francese. Yeah, che famo notte? Il 27 dicembre del 1978, olé, la Spagna diventa una democrazia dopo 40 anni di dittatura. Quiero ballar. Quiero ballar. Musica mental. Quiero ballar.

l'arte maestro Corteadro Er Burattino. Gigi D'Agostino. È impossibile restare del tutto senza amore. Anche se fatto solo di parole, è pur sempre un amore da vivere. Duras. Prendiamo il cammino tra qualche minuto. La vita è più bella quando suona la campanella. Musica. Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. Un viaggio incontaminato, un sentiero innamorato, la semplicità di un bambino, il cammino di Gigi D'Agostino, musica che unisce. Musica che unisce. Che unisce. Che unisce. Che unisce. La bocca. La mano. La mano. La danza. La musica. Los ojos. La boca. Las manos. La magia, la danza, la música, camina conmigo. We'll be right back.

sentiamo domani. Grazie.